ci sono intanto due motivi. Intanto San Michele Arcangelo è il patrono della Polizia di Stato, ma c'è chi vi sostiene che è anche il patrono della 'Ndrangheta. Noi abbiamo Polsi, che è un bellissimo santuario, che io ho avuto modo di vedere proprio per la festa della Madonna, che è stato, diciamo, documentato comunque come un luogo di ritrovo della 'Ndrangheta con i suoi riti, diciamo, ancestrali, che porta avanti simbolicamente, diciamo, no, per la filiazione e per quant'altro. Bene, siccome io sono rispettoso di quelle che sono gli aspetti religiosi, anche i santuari, perché vedete, a posti comunque che io ci sono stato, ho visto tanti fedeli veri. Certo. Mi sono chiesto, ma perché noi dobbiamo mortificare questo santuario e dobbiamo farlo diventare, passare, diciamo, all'opinione pubblica come un luogo di 'Ndrangheta? Quindi ho voluto dare un contributo. Assolutamente. Che è quello di dire, portiamoci qua la festa di San Michele Arcangelo, che ha due obiettivi da raggiungere. Prima di tutto restituire ai religiosi il santuario, in secondo luogo festeggiare il nostro patrono, che comunque noi non lo condividiamo con nessun altro, perché il patrono di San Michele Arcangelo è quello della Polizia di Stato. Assolutamente. E non dell'Ndrangheta. Assolutamente. Poi Michele viene dall'ebraico Mica, che vuol dire chi come Dio. E chi come Dio certamente non può essere né la 'Ndrangheta, ma né le cosche, ma chi difende la legalità, e quindi non può essere che altro, può essere altro che rappresentato e rappresentabile come santo patrono delle forze dell'ordine, della polizia segnatamente.